In Spagna ci sono già stati oltre 500.000 casi di contagio e 270 morti a causa dell'influenza A. La fascia di popolazione più colpita è quella dei bambini tra i 5 e i 14 anni. Si sono infatti registrati 1.035 casi ogni 100.000 abitanti. L'intensità del contagio cambia anche da regione a regione. La più colpita è quella basca, mentre per il momento le regioni del sud sembrano reagire meglio all'influenza. Il picco è comunque atteso nelle prossime settimane, tra la fine di novembre e tutto dicembre, mentre lunedì 16 novembre inizierà ufficialmente la campagna di vaccinazione simultaneamente in tutte le regioni. A questo proposito, la Spagna conta di vaccinare il 40% della popolazione, 46 milioni di abitanti, percentuale ampliabile al 60%. Per il momento la situazione nel paese è sotto controllo, non ci sono stati ancora casi di panico o di sovraffollamento negli ospedali, anche se alcuni pronto soccorsi nell'ultimo fine settimana hanno lavorato senza sosta per esaminare casi sospetti di influenza. Per il momento comunque il contagio è ancora basso, 290 casi ogni 100.000 abitanti. Michele Galcaterra, GR24, Il Sole 24 Ore, Madrid.